si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, quando sono le 7:34 minuti, di nuovo buongiorno, il buongiorno del weekend di Radio 24, come si può fare? Allora, stiamo insieme fino alle 10, una lunga mattinata, cominciamo con una rapida lettura dei giornali di oggi, poi i nostri approfondimenti, le nostre interviste, sempre a caccia di buone pratiche se possibile. Cominceremo con una notizia attesa da tempo, è l'approvazione della legge sul caporalato, vedremo se e che cosa cambierà nel duro lavoro nei campi in Italia. Questo dopo il GR delle 8, adesso cominciamo con i giornali, i nostri contatti se volete interagire fin da subito con noi in tempo reale 349-238-6666, la pagina Facebook e l'account su Twitter è @ si può fare 24, il mio è @ Ale Maurizi, vai, iniziamo! E allora, sui giornali di oggi i titoli principali sono dedicati quasi tutti alle ultimi aggiustamenti relativamente alla manovra economica, alla legge di stabilità col doppio versante, quello del rapporto con l'Europa sul tema della flessibilità. Ieri c'è stato il Consiglio europeo, sono uscite anche delle altre notizie relativamente, lo sapete, alle sanzioni alla Russia momentaneamente accantonate, però è fallito l'accordo che invece era molto importante per l'Italia commerciale dell'Europa con il Canada, sono fallite le trattative per l'opposizione di una regione all'interno del Belgio, questa è l'Europa oggi, la Vallonia. Poi l'altro versante di manovra è quello interno con le notizie relativamente a quello che ha intenzione di fare il governo, è questo il punto di partenza per esempio della Stampa che titola dietro fronte del governo con tanti no al condono, il premier cambia la norma contestata, dubbi anche sulla privatizzazione delle Poste, Palazzo Chigi non chiediamo flessibilità, intervista al vice ministro Calenda sul commercio, l'Europa rischia di implodere e la vedremo tra un attimo questa intervista. Il Corriere scrive invece Europa, Renzi attacca ancora, qua siamo sull'altro versante. Dalle sanzioni alla Russia al voto UNESCO sui luoghi sacri resta il blocco sull'addizionale IRPEF, questa è l'azione del governo, ma appunto Renzi che attacca sulla questione della manovra dicendo l'Italia non ha chiesto alcuna flessibilità, solo che vengano applicate le clausole di straordinarietà sul sisma, sul terremoto di accumulo e di Amatrice e sulla questione dei migranti. Repubblica, manovra, salta la sanatoria, qua siamo ancora sull'altro versante, modificato il decreto fiscale, vengono eliminati gli sconti per chi denuncia i capitali nascosti. Sull'evasione fiscale, lite Boeri, presidente dell'INPS, Poletti, ministro del lavoro, il capo del governo che invece a Bruxelles ribadisce non ho chiesto la flessibilità. Sulla manovra ovviamente anche il titolo del Sole 24 Ore di oggi che è questo, cartelle e multe, ecco le regole per chiudere i conti con Equitalia. E qua siamo anche all'informazione di servizio perché con la rottamazione dei ruoli si punta anche ad archiviare quasi 100.000 liti tributarie, come se ne occupa appunto oggi il Sole 24 Ore. Quindi vi leggo l'inizio dell'articolo. Con alcune notizie, con l'adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia si dovrà dire addio anche ai contenziosi instaurati contro l'agente della riscossione. Non solo, chi già sta saldando il suo debito a rate non potrà vedersi rimborsare sanzioni, interessi di dilazione o ancora interessi di mora. Peraltro, il contribuente dovrà essere perfettamente in regola con i pagamenti mensili in scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre di quest'anno, scrive ancora il Sole 24 Ore, che poi va avanti. Nessuna possibilità di riduzione dei ruoli, invece, se l'ultima rata scade entro la fine dell'anno. È complicato, ma insomma tutte le informazioni le trovate sul Sole 24 Ore di oggi, che ne riporta anche uno schema molto semplice, i passi per la chiusura di questi contenziosi, chi sono i soggetti ammessi, quali le cartelle che sono interessate, come si fa la richiesta di adesione, come si può pagare, chi invece non paga perde tutti i benefici, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre questo sul Sole 24 Ore di oggi. A proposito di invece di titoli principali, vabbè, c'è il solito sondaggio del fine settimana al Corriere, interessante, sulla riforma costituzionale. Intanto scrive il Corriere: il no è a quota 54%, quindi il sì prevale solo sugli over 65. A questo punto sono 8 i punti che dividono il no dal sì nel più recente sondaggio Ipsos. I contrari alla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi sono il 54% contro un 46% di favorevoli. I giovani trainano il no, mentre il sì prevale solo tra le persone sopra i 65 anni. Sarà per questo, perché ha letto i sondaggi, qualcuno dice malignando, che il premier Renzi va aumentando le promesse economiche in qua e in là, per esempio con il tema di cui abbiamo appena parlato, cioè quello della chiusura di Equitalia, e quindi tutto il tema dei contenziosi, degli sconti, eccetera, eccetera. Un intervento per molti atteso e benvenuto, ma che non era fino a poco tempo fa, non era chiaramente, anzi, nel programma del Partito Democratico, che invece criticava questa iniziativa, questa potenziale misura, che invece faceva parte del programma, per esempio, del Movimento 5 Stelle da tempo, e lo sapete benissimo. L'altra questione che intreccia, anzi, prima leggiamo l'intervista al ministro Calenda sulla questione economica, che dicevamo prima, è passato un po' in secondo piano dal Consiglio europeo di Bruxelles di ieri. La questione del trattato commerciale con il Canada, che è fallito. Appunto, il ministro per lo sviluppo economico Calenda alla stampa rilascia queste dichiarazioni. Ministro, salta tutto per il no della Vallonia, una regione del Belgio. È possibile? Ampiamente prevedibile, purtroppo. L'errore è stato chiedere il parere favorevole a tutti e 28 i paesi. I parlamenti chiamati a votare l'accordo sono addirittura più di 30. La commissione però aveva competenze da far valere, ed è in particolare quella sul commercio. Adesso nei fatti è in discussione, quindi attribuisce la responsabilità del fallimento alla commissione Juncker. La commissione, risponde Calenda, non ha avuto il coraggio di insistere, ma la responsabilità più grossa è di Francia e Germania, che hanno messo il veto. Ma che cosa significa questo mancato accordo con la Canada per l'Italia? Un danno grave, dice Calenda, come se non ce ne fosse bisogno, visto che già i danni per l'economia italiana derivano anche dalle sanzioni alla Russia, su cui pure si è evitato un inasprimento grazie appunto all'intervento italiano, ma lì in ballo c'è la questione siriana. Vado avanti con Calenda sulla questione del Canada. Calenda dice: è un danno grave, basti dire che avevamo negoziato il riconoscimento di 41 indicazioni geografiche tipiche. Oggi in Canada il prosciutto di Parma, ecco quello di cui stiamo parlando, deve entrare come l'original prosciutto. In quell'accordo c'era inoltre l'accesso all'80% del settore degli appalti pubblici, due punti che nel negoziato sul TTIP non siamo riusciti a chiudere, e che non sono riusciti a chiudere nemmeno l'Europa con il Canada, nel momento in cui chiedendo il parere favorevole di tutti gli stati e addirittura le regioni all'interno dello Stato, come nel caso della Vallonia, non si è potuto concludere, e le trattative con il Canada si sono addirittura interrotte. L'altra questione, stavo dicendo poco fa, che intreccia invece il Presidente del Consiglio Renzi, è quella dell'UNESCO. Come sapete, la risoluzione votata dall'UNESCO sulla praticamente mancato riconoscimento del legame tra la religione ebraica e i luoghi sacri, appunto, di Gerusalemme. Renzi: allucinante il voto UNESCO contro Israele, ora basta con i no. Insomma, la vicenda la conoscete, c'è però da segnalare di nuovo oggi l'intervista al ministro degli esteri Gentiloni sul Corriere della Sera, che dopo che ieri Renzi ha detto ne parlerò con Gentiloni, quasi come se fosse una strigliata, ma in effetti era quello, poi dopo Renzi ha corretto, ha detto no, non avrò colloqui formali con Gentiloni, cioè ha un attimino abbassato la guardia, non ha voluto mettere in discussione il ministro, però c'è il cambio di posizione dell'Italia per il futuro ed è un fatto importante. Perché? Perché l'Italia si è astenuta su questa risoluzione e sono molti paesi che si sono astenuti. Se questi paesi che si sono astenuti avessero votato no, quella risoluzione non sarebbe passata. Stiamo parlando di aspetti diplomatici, di sfumature, ma stiamo parlando anche di prese di posizione che possono avere un'importanza. Allora scrive Gentiloni al Corriere, risponde Gentiloni alle domande del Corriere. La negazione da parte dell'UNESCO del legame tra ebraismo e luoghi sacri di Gerusalemme è assurda, ma si ripete da anni. È l'undicesima volta che l'Italia si astiene. La discussione tra le diplomazie è se il modo migliore di contrastare questa assurdità sia di cercare di ridurre l'area di consenso a questa posizione, strada seguita fin qui dall'Italia, cioè l'astensione, ovvero, come fanno altri paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, se sia meglio testimoniare la propria contrarietà. È un linguaggio diplomatico, chiaramente, perché chiaramente se uno è contrario vota no, ma l'astensione ha questo, diciamo, significato in realtà di avallare un po' le decisioni dell'UNESCO, anche se se ne prendono le distanze. Prosegue Gentiloni, ricordo che quest'anno per la prima volta i paesi astenuti sono più di quelli a favore, 27 a 23, con 6 voti contrari. Questo, ripeto, vuol dire che se questi paesi astenuti avessero votato contrario, la risoluzione non sarebbe passata. Rispetto alla precedente votazione, una decina di paesi, tra i quali Francia e Svezia, sono passati dal sì all'astensione. Mi rendo conto che sia solo un calcolo diplomatico, non è stato capito che la scelta di voto abbia ferito la sensibilità di molti. Ne ho parlato con Renzi, alla prossima occasione in aprile cambieremo il nostro atteggiamento. E questo è il punto. Quindi l'Italia, quel che dice Gentiloni, passerà su questo genere di risoluzioni dall'astensione, quindi da una posizione di maggiore equidistanza o equilibrio anche in queste questioni, perché ricordiamo per esempio che la risoluzione dell'UNESCO può apparire assurda, il fatto di non riconoscere il ruolo della regione ebraica a Gerusalemme è assurda, però c'è un vecchio contenzioso, Gerusalemme non, Israele non è praticamente più dentro all'UNESCO e quindi è una questione molto complessa e delicata, ma insomma la notizia è questa: l'Italia cambierà il proprio modo di votare su questo genere di cose dalla prossima volta. C'è il parere atipico di un ebreo atipico, diciamo così, Moni Ovadia, su Repubblica, che da ebreo dico bene restituire dignità ai palestinesi. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo su questa intervista tra un attimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, stavamo parlando della vicenda UNESCO, della risoluzione dell'UNESCO su Gerusalemme. Ieri Renzi ha strigliato il ministro degli esteri Gentiloni perché la Farnesina utilizza questa strategia della astensione, ma secondo Renzi bisogna difendere più in maniera più aperta la posizione di Israele e quindi bisogna avere dare un voto contrario. E Gentiloni ha detto faremo così la prossima volta, naturalmente. Ma su questa vicenda vi ho anticipato il parere, come sempre un po' controcorrente, di Moni Ovadia, ebreo, attore, regista, lo sapete, 70 anni, su Repubblica, spiega così la sua posizione, che è ha fatto bene l'UNESCO a votare in quel modo, bisogna restituire dignità ai palestinesi. Prima di tutto su Renzi, il premier, la domanda, ha detto che quella risoluzione dell'UNESCO era finalizzata ad attaccare Israele. Che cosa ne pensa? E risponde Ovadia: sta per caso ricambiando gli Stati Uniti per lo spot di Obama al sì al referendum? Scherzi a parte, la cosa opportuna da fare sarebbe invece convocare una conferenza di pace in Europa, perché fu proprio in Europa che avvenne l'Olocausto. Il nostro continente ha un debito morale in questo senso. Ma la questione di non avere nominato il muro del pianto nella risoluzione UNESCO utilizzando solo la dizione araba, per lei è importante? Questo è il punto. Attaccarsi a queste cose, risponde Monio Vadia, come fa Netanyahu, è propaganda nazionalista. Lui è un uomo di destra che parla di un presunto diritto divino degli ebrei su quella terra, e in nome di ciò mette in discussione la legittimità di esistere dei palestinesi, i quali sono stati vessati, espropriati delle proprie terre, vivono in una prigione a cielo aperto, isolati dalla comunità internazionale. Ad oggi ci sono 500.000 coloni che si sono insediati illegalmente, questo è pur vero, nei territori che non gli spettano. Si chiama occupazione, ce ne rendiamo conto? Quindi diciamo che Monio Vadia paragona la questione del riconoscimento del ruolo di Israele ed ebraico a Gerusalemme con la questione delle colonie create da Gerusalemme, da Israele, nei territori palestinesi. Esiste però il legame millenario tra ebrei e Gerusalemme, legame che non sarebbe stato tenuto di conto dall'UNESCO, sempre secondo Israele. Naturalmente questo legame c'è, dice Ovadia, ma siamo di fronte alla strumentalizzazione politica di un premier, Renzi, che di fatto non vuole che di fatto non vuole riconoscere dignità alla Palestina. Ben venga invece che l'UNESCO l'abbia fatto. Abbia avuto questa sensibilità. E va bene, questa è la posizione di Monio Vadia. Altri titoli, altre notizie dai giornali di oggi, per esempio il Fatto Quotidiano, che si occupa di questo, scrive: il governo, il titolo principale, ricatta Telecom e Company, Mediaset invece non si tocca, operazione per far subito cassa, out out alle compagnie della telefonia mobile, ma se pagheranno subito la proroga sarà più lunga. Per le televisioni continua invece la Pax renziana, con la banda larga in Francia hanno già guadagnato 2,8 miliardi, mentre in Italia, per accontentare il biscione, tutto fermo almeno fino al 2022. Il governo spreme 2 miliardi dalle compagnie telefoniche e non chiede niente invece per le concessioni TV. Questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano. Il Secolo XIX ci ricorda invece la soluzione dell'ex assessore alla regione Liguria, candidata poi per il PD alla regione, sconfitta Raffaella Paita. Mancata allerta per l'alluvione, assolta la Paita, che però dice: non dimentico chi mi ha crocifisso. Il tema è interessante perché è quello sulla questione degli allerta. Lei allora era assessore alla protezione civile nel 2014, non diramò, secondo l'accusa, che era pesante, di omicidio colposo, l'allerta per quelle alluvioni che avrebbe dovuto poi mettere in moto tutta la macchina organizzativa. Per il giudice non ha commesso il fatto. E insomma, la questione è se diramare un'allerta e poi scaricarsi ogni responsabilità sia meglio che invece diramare le allerta quando servono, perché quello che poi succede è che le allerta vengono diramate in maniera così tanto al chilo, per evitare poi appunto di finire magari, perché no, anche indagati per delle cose che poi finiscono in nulla. Poi c'è anche la questione giudiziaria da capire, quanto stesse in piedi il processo prima, quanto invece sia da capire questa assoluzione. Ma insomma, la notizia era degna di un'apertura per quanto riguarda il giornale di Genova. L'Air Force di Renzi costa 76.000 euro al giorno. Questa invece è l'apertura del giornale di oggi. Documenti segreti sul jet, l'aereo di Stato è chiuso in un hangar fino al referendum, ma intanto lo paghiamo, in un anno spesi già 6 milioni. In chiusura, la foto notizia invece vi voglio dire sulla Corriere della Sera, della campionessa turca di Taekwondo, spero averlo pronunciato bene, Kubra Dagli, turca 20 anni, ha gareggiato con il velo ma è stata ricoperta di critiche dai tradizionalisti nazisti perché aveva piedi e fianchi non coperti. La dura vita delle donne religiose credenti in Turchia, che non, come fanno, sbagliano praticamente. Questa sarebbe la sintesi. Ci fermiamo qua, è tutto, ma in realtà torniamo dopo il giornale radio con Si può fare. A dopo, ciao. Il segnale orario vi è offerto da tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance. Ed eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. 8 e 19 minuti, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Carlo, Milano, Monterosa? Ma oggi c'è un pochino più di luce, butta bene, anche se non c'è certezza, Però sì, mi piace, sembra... questo tuo meteo, non c'è certezza. Non come c'è sempre. Certezza. Però insomma oggi sembra che qualche spiraglio di sole ci sia, almeno dalle nostre parti qua a Milano. Cari ascoltatori, vogliamo stare in vostra compagnia anche questa mattina, vi aspettiamo per avere i vostri racconti, come è andata la vostra settimana, per giocare con noi. Insomma, noi non vogliamo entrare nel gioco del chi non doveva esserci a tavola con Renzi e Obama. Perché all'ultima cena, volevi all'ultima dire. Cena, però perché qualcuno ha avuto da criticare Benigni, sì, Sorrentino, no, eccetera, eccetera. A questo punto, diciamo, chi avreste portato voi? Cioè, esatto. Ci fosse stato un posto in più a tavola. Non ci interessa eliminare delle persone, tanto immaginiamo Obama potrebbe tranquillamente pagare un coperto in più, e quindi noi siamo per aggiungere un posto a tavola. Chi invece Renzi si è dimenticato di portare? Sì. Chi portereste voi? Chi avreste voluto aggiungere a quella cena senza stare a impallinare quelli che sono già andati e hanno mangiato, e va bene così. E anche oggi chi dà la risposta che ci convincerà di più, che ci piacerà di più, si porta a casa i biglietti della mostra di Escher al Palazzo Reale di Milano. 800 24 00 24. Avremo con noi Giulia Innocenzi, parleremo del suo libro Trita Carne, un libro dedicato a tutti i vegani, ma non solo, perché anche chi mangia carne... È bene che sappia come viene prodotta, come mi vengono allevati. Mi sento già male. Pensavo che avessi fame, dicessi. E poi, insomma, tante cose. Adesso partiamo tra poco da una... finalmente ci voleva la legge sul caporalato, che è stata approvata, vedremo se... Se ne parla da quando siamo anni, nati, giusto? 100.000 anni, da sempre, è arrivata, vedremo cosa cambierà. E poi naturalmente il crowdfunding, più avanti nella seconda ora, farete i giurati per noi, cari ascoltatori, all'800 24 0024. Vai, iniziamo! Abbiamo deciso di partire proprio così, con un alleluia, cioè finalmente è stata approvata la legge sul caporalato. Ce l'avevamo pronta questa traccia, sì, dalla fine degli anni Ottanta. Esatto, sono 30 anni, un problema grandissimo, il lavoro nei campi, lo sfruttamento da parte dei cosiddetti caporali. E con noi intanto il relatore della legge, deputato del PD, Giuseppe Beretta, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, il lavoro nei campi, noi, cioè, tutti sanno che è un lavoro faticoso, faticosissimo, un lavoro stagionale per cui si lavora anche poco, pagato pochissimo. Non so quanti e quali di tutti questi problemi la legge ha voluto affrontare. Che cosa cambierà, speriamo in meglio naturalmente, con questa nuova legge? Beh, intanto partiamo dal fatto che è un fenomeno diffusissimo, è diffuso a tutti i livelli, in tutti gli ambiti, non è soltanto un tema di agricoltura, è anche diffuso nel territorio nazionale, dal nord al sud, senza, in questo senso non si fanno discriminazioni. Non sappiamo se gioirne. questa volta non sappiamo se gioirne del fatto che non si facciano, no, discriminazioni. Assolutamente non ne gioiamo, non ne questa gioiamo diffusione indiscriminata del capolato, di evitare che questo, diciamo, fenomeno si propaghi ulteriormente. Riguarda 400.000 lavoratori, questi sono i dati che ci sono stati forniti durante una lunga istruttoria della legge, e la legge ha la funzione, diciamo, intanto di sanzionare in maniera più grave rispetto al passato. Abbiamo introdotto quindi un reato di caporalato che sanziona non soltanto chi si occupa di appunto procurare la manodopera, ma anche chi la utilizza, quindi il datore di lavoro che va nella piazza del paese e sa che lì ci sono le persone disponibili a lavorare senza bisogno di un intermediario e li utilizza sfruttandoli in maniera grave, gravissima, sa da questo momento in poi che può essere sanzionato anche lui direttamente. Inoltre abbiamo previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per dare il segnale netto e chiaro che si tratta di un reato gravissimo che va sanzionato in maniera immediata. Abbiamo previsto il rafforzamento dell'istituto della confisca, cioè chi fa produce e realizza ricchezza attraverso lo sfruttamento della manodopera deve sapere che un domani lo Stato gli toglierà tutto. Abbiamo previsto anche che si applicheranno delle misure cautelari, quindi nel momento in cui un imprenditore venisse accusato di questo reato, però l'azienda però potrà proseguire attraverso l'utilizzo. La interrompo un attimo, Berretta, su un punto, no? Sì. Perché che cos'è sfruttamento, oltre alla tecnica appunto del caporalato, cioè ti recluto, ti porto a lavorare senza contratto, in nero, senza nulla, sotto il sole, senza misure di sicurezza, e ti taglieggio, si può dire quasi, pure una parte importante dello stipendio. Lavorare per pochi euro al giorno, anche questo è sfruttamento, anche in assenza per esempio di un camion che ti porta. Camion. Allora, gli elementi che caratterizzano la fattispecie sono due: lo sfruttamento, cercherò di spiegare un po' meglio, e l'approfittamento dello stato di bisogno, cioè intanto è necessario che si tratti di una persona che non è libera di scegliere e che quindi è costretta dalle condizioni economiche, dalla sua condizione di difficoltà, magari si tratta di un immigrato irregolare, di una persona che è totalmente sprovvista di un alloggio, degli beni essenziali per la propria vita. L'altro elemento quindi è quello dello sfruttamento, e lo sfruttamento deve essere una violazione temporalmente apprezzabile, non è una singola violazione. La singola violazione verrà sanzionata con gli strumenti tipici del diritto civile, quindi se mi fa fare due ore in più il mio datore di lavoro, io avrò diritto allo straordinario. Ma se si tratta invece di una sistematica violazione dei miei diritti, mi vengono negate le ferie, mi viene fatto un orario di lavoro eccessivo, vengo pagato molto poco a differenza di quello che prevede il contratto collettivo. Chiaro, però un'altra obiezione che le voglio fare, non è un'obiezione ma una domanda, è questa: perché tutte le cose che sta dicendo lei come fanno a emergere, a venire alla luce del sole? Perché sappiamo che spesso queste persone, proprio perché sono in condizioni di bisogno, non andranno probabilmente di loro spontanea iniziativa a denunciare alcunché. Come pensa la legge di far emergere, con dei controlli, in che modo? Appunto, sicuramente viene rafforzata la rete dei controlli anche attraverso un meccanismo che è la rete del lavoro agricolo di qualità, che coinvolge tutti gli attori, organizzazioni sindacali, organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, i soggetti preposti alla vigilanza. Ma un altro elemento che noi abbiamo inserito e che ha funzionato in altri ambiti e che qui secondo noi potrà dare importanti risultati è l'applicazione di un attenuante per il soggetto che collabori, quindi chi collabora e quindi il caporale che collabora o i soggetti coinvolti che sono stati complici del reato, che forniscono la loro collaborazione, avranno significativi sconti di pena. E si parla anche di regolarizzazione delle persone che decidono di denunciare gli sfruttatori. Sì, esatto, anche questo. Quindi diciamo è una legge complessa che abbiamo adottato in un tempo molto molto rapido, perché alla Camera abbiamo fatto, diciamo, uno sforzo di non modificarla, perché il testo del Senato ci convinceva, ma anche perché abbiamo ritenuto che fosse prioritario che entrasse in vigore una regolamentazione più efficace, in grado di sanzionare davvero un fenomeno che è in crescita, che è davvero un fenomeno indegno, perché tutti. Certo, assolutamente. Senta, approfitta della condizione di difficoltà delle persone. Le vorrei fare altre due domande sulla questione dei controlli, no? Che dicevamo poco fa, perché da una parte sappiamo che ci vorrebbero i famosi ispettori, gli ispettori del lavoro, per fare anche questi controlli. Sì, sappiamo che tutti gli enti locali hanno sempre meno soldi in cassa e che abbiamo sentito anche di storie dove non c'erano i soldi per fare il pieno alla benzina alla macchina dell'ispettore, che non poteva andare materialmente da nessuna parte. Quindi figurarsi i controlli. Esatto, fare i controlli. Dall'altra, la domanda che le faccio è questa: abolendo le province, che fine faranno gli uffici provinciali del lavoro a cui facevano capo alcune di queste competenze? Beh, intanto partiamo dal fatto che in questo ambito i controlli saranno svolti e possono essere svolti, tenuto conto anche dell'importanza del reato che abbiamo configurato, da tutte le forze di polizia, i carabinieri anche proposti al controllo, che hanno specifiche competenze in materia di vigilanza sul rispetto della disciplina lavoristica, ma non soltanto. Diciamo, l'autorità giudiziaria si potrà attivare, potranno attivarsi i vari corpi in cui si articolano le forze dell'ordine in Italia, e quindi non c'è una competenza esclusiva di chi vigila in materia di rispetto degli ispettori del lavoro, ma tutti coloro i quali hanno funzioni di vigilanza e controllo potranno intervenire, potranno segnalare i fenomeni e potranno quindi dar luogo all'applicazione della procedura connessa al reato in questione. Dopodiché, dal punto di vista delle competenze, le competenze permangono agli enti che sono subentrati alle province e che hanno questa funzione di verifica e controllo. In ogni caso ci sono i livelli regionali e i livelli nazionali che in ogni caso assolveranno alle funzioni di vigilanza per come esse sono state determinate dalle leggi, quindi non è che venendo meno le province verranno meno le funzioni di controllo, di verifica e di monitoraggio, che sono funzioni essenziali che lo Stato continuerà a esercitare attraverso le nuove articolazioni che si sono scelte. Quindi certo, in questo senso mi sento noi ci vogliamo credere e speriamo naturalmente che queste competenze non si perdano, soprattutto che ci siano i fondi per garantire i controlli, le ispezioni, perché è abbastanza intuitivo capire che se non si fanno controlli probabilmente poco emergerà di questa realtà. Però ricordiamo con fiducia un punto: allora, il carcere da 1 a 6 anni per gli intermediari, i datori di lavoro e per i caporali, e addirittura da 5 a 8 anni con le aggravanti della violenza e delle minacce. Cioè, cari caporali all'ascolto, sappiate che le pene sono pesanti, sono queste qua, quindi fatevi i vostri conti, meglio se lasciate perdere forse. Grazie, onorevole Berretti. Sono anche le società, nel caso in cui ci siano società con delle sanzioni molto pesanti anche dal punto di vista economico, quindi io credo che l'impianto complessivo sia un impianto complessivo moderno e in grado effettivamente di affrontare questo fenomeno in maniera bene. Grazie. Grazie mille. Buon sabato, buona grazie giornata. 800 24 00 24, cari ascoltatori, come sempre vi chiediamo se vi ha convinto questa legge, questa ricetta, insomma, per sconfiggere o quantomeno arginare, limitare il fenomeno del caporalato, una cosa terribile che va assolutamente arginata. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche per giocare e per dirci chi avreste aggiunto alla cena di Obama, l'ultima cena ufficiale di Obama alla Casa Bianca. Tra l'altro devo dire che ci sono già un sacco di messaggi al 349-238-6666, chi candida Alex Zanardi, chi Totti, chi Boccelli. Non le dico tutte perché non voglio bruciare qualche telefonata che potrebbe arrivare, quindi invece vi aspettiamo proprio per sentire come motivate anche queste. Esatto, e se già che troviamo delle eccellenze italiane, se troviamo anche una donna che si possa mettere a capo dell'ONU, giustamente, sì, come testimonial per i diritti delle donne, esatto. Giusto, perché hanno scelto Wonder Woman, esatto, non è una barzelletta. Siccome stamattina di questo parlavamo e ci sembrava assurdo che come testimonial abbiano scelto Wonder Woman, e c'è stata la reazione di qualcuno che diceva: ma forse esistono anche donne in carne ed ossa e non personaggi dei fumetti che sono di valore e che meriterebbero il ruolo di testimonial. Quindi se già che ci siete, mentre organizziamo il pullman per partire tutti per andare da Obama, se mettete su anche un'eccellenza italiana femminile, la mettiamo lì. 800 24 00 24, tra poco. Ecco. Eccoci qua, 800 24 00 24, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Fiorella ci chiama da Lucca, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, sono qua. Ciao Fiorella, su cosa volevi intervenire? Niente, volevo dire che secondo me insieme ad Obama avrei mandato Fabiola Giannotti, la grande scienziata del CERN, quella del bosone di Higgs, per capirci. Sì, qualcuno del mondo della scienza, chissà se, perché erano tanti gli invitati al tavolo, erano quelli noti, insomma al tavolo con Renzi, erano Shell, Benigni, Agnese, Obama, sì, Benigni, Sorrentino, Bebevio. E pochi altri, perché il tavolo non era di moltissimi invitati, gli invitati erano un 300. Fabiola Giannotti, una persona di grande valore, sì, di grande umiltà e compostezza, assolutamente, meno mondana, forse meno nota in qualche modo, e quindi, però forse più interessante da avere a cena. Condivido. Ma vale anche come candidatura per le pari opportunità delle donne, come ma testimonial non mi servono le pari opportunità, no, siamo vabbè, talmente brave che brava, non giusto, bisogno, giusto, perfetto. Grazie, no, Fiorella. Ma infatti, grazie, le pari opportunità sono nell'altro senso, bisogna darle a noi uomini le stesse opportunità. Sì, se no non sì, ce la facciamo, giusto, penso è vero. Sì. Io sto crescendo due figlie femmine, quindi non posso che accodarmi. Ecco, sì, capisco, poco ma capisco. Ciao Fiorella, grazie. Daniele da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io avrei portato il sindaco di Amatrice o comunque il sindaco di uno di quei comuni colpiti dal terribile terremoto, perché è simbolo di un'Italia che nonostante tutto, nonostante le macerie che ci cadono addosso, nonostante le difficoltà, sa rialzarsi, è il simbolo di un'Italia che può fare in qualsiasi situazione, anche la più tremenda. Allora, il sindaco di Amatrice, il sindaco di un comune terremotato, assolutamente, anche se c'è stata qualche polemica poi su quel nome lì, su quella persona lì, perché si ricorda la questione della scuola, su cui era stato messo un annuncio che era stato fatti i lavori a norma sismica, invece non era proprio così. E quindi, però, insomma, lei dice bypassando tutte queste polemiche, portare. Ma anche un altro sindaco ha giustamente detto: ha detto magari non proprio quello di Amatrice, dice portiamo un altro sindaco dei comuni che hanno subito il terremoto. Bene, 800 24 00 24, queste le prime due chiamate, ma insomma vi aspettiamo per dirci chi avreste portato un posto in più al tavolo con Renzi e Obama, e già che ci siamo, se ce l'avete anche una donna che possa essere testimonial dell'ONU per i diritti delle donne, perché al posto di Wonder Woman, che non è una barzelletta, è quello che in effetti è venuto fuori ieri proprio dall'ONU, e c'è una petizione di centinaia di funzionari l'ONU che sono contrari, perché dicono troviamo una donna vera, una Wonder Woman in carne ed ossa che esiste. A me piace il cacio fresco annaffiato dal buon vino, i fagioli della penna che profumano di solfino, i marroni sotto burro, il burrito, il cotechino, le salsicce abbrostolite, maiali di contadino. Io vivo, cosa si sono messi in testa che si può fare stamattina? Di cosa stiamo parlando? Questo è Vivo Libero nel Chianti dei Ptolemaes Brothers. Non so chi siano, ignoriamo assolutamente l'esistenza di questo gruppo. Ma appena bevi la giusta quantità di Chianti, poi ti tornano tutti in mente. Digerisci tutto, anche questa canzone qua, che non è il massimo. Ma insomma, volevo parlare del Chianti perché c'è la candidatura del Chianti a patrimonio dell'UNESCO. E tutte le volte che c'è da valorizzare la tavola italiana, noi ci siamo, perché insomma la dieta mediterranea dovrebbe essere legge nel mondo, così, senza tante discussioni. Allora, diamo il buongiorno a Sergio Zingarelli, presidente del consorzio Chianti Classico, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima però voglio fare una domanda preliminare. Con l'aria che tira sulla questione dell'UNESCO, mi riferisco alla risoluzione, quella che ha fatto discutere su Israele, eccetera, eccetera, vi conviene entrare proprio in questo momento? Vi converrebbe? Innanzitutto è un percorso molto lungo. Prima di arrivare all'UNESCO bisogna prima passare ad altre fasi, quindi penso che il dossier sarà pronto in 2-3 anni per presentarlo all'UNESCO, quindi è un percorso piuttosto lungo, e tanto ci prepariamo in questi 3 anni a presentare tutta la documentazione idonea per ricevere, sperando, domani la candidatura al riconoscimento al sito UNESCO del Chianti. Ecco, una cosa, si parla di Chianti come territorio, però sì. Noi come vino invece parliamo di Chianti Classico Gallo Nero, che il Chianti Classico Gallo Nero si produce nella zona storica, nella zona geografica del Chianti. Perché se non si specifica Chianti Classico Gallo Nero si fa... Sì, diciamo che sono due vini diversi, anche se hanno un nome in comune che è la parola Chianti. Diciamo il Chianti nasce nella zona dove oggi si produce il Chianti Classico, poi per varie fasi storiche all'inizio del Novecento, per motivi anche politici, diciamo si è persa l'esclusività del nome Chianti dei produttori storici della zona del Chianti, e quindi poi nel 32 però già questo zona... Zingarelli non aiuta ad arrivare nel mondo, perché se già dobbiamo cominciare a fare delle distinzioni noi innanzitutto poi... non stiamo chiedendo il riconoscimento del vino, ma del territorio, quindi è un territorio che è tra le città di Siena e Firenze, dove si produce appunto il Chianti Classico, dove geograficamente il territorio si chiama Chianti. Quindi parliamo di 8 comuni, di cui 4 completamente all'interno della zona di produzione di Chianti Classico, sono Radda, Greve, Gaiole e Castellina, e poi altri 4 comuni che fanno parte, della non totalmente, ma la gran parte del comune all'interno del nostro territorio. Quindi noi stiamo iniziando a predisporre, perché il Consiglio di Amministrazione di Chianti Classico, l'Assemblea di Chianti Classico per la prima volta si è trovata all'unanimità a deliberare a favore del progetto di candidatura del Chianti come geografico al sito UNESCO, e contemporaneamente i sindaci dei comuni, 7 su 8 comuni del Chianti Classico, sono assolutamente favorevoli, anche loro hanno deliberato a favore della candidatura, quindi adesso stiamo lavorando insieme per predisporre. Senta, ma ci sono due domande che le voglio fare. Una riguarda l'alleanza inedita, che questa è già realtà, la candidatura a UNESCO sta arrivando, l'alleanza con lo Champagne, che può sorprendere, no? Però dall'altra parte le voglio chiedere, siete invece in competizione con l'altro distretto del vino, le Langhe, che anche... Assolutamente no, anzi io sono anche... molto amico dell'ex presidente del consorzio, anzi mi sono un attimo confrontato anche con lui. Penso che le eccellenze dell'Italia bisogna cercare di valorizzarle al meglio. Loro ci sono riusciti, si sono mossi molto prima di noi, sono stati molto abili. Le spiego, pare che per arrivare a ottenere, se si dovesse ottenere il riconoscimento, ci vuole un iter che ci vuole circa 7-8 anni, per quello che diciamo. Ma ci tolga una curiosità, quando vi incontrate, cioè lei che è il presidente del consorzio Chianti e il presidente, che cosa bevete? Che vino bevete? Di solito se vengono loro in Toscana si beve il vino il Chianti Classico, se andiamo in Piemonte si beve il vino piemontese. Ah, la regola in strada, giusto, ci dividiamo e a metà. A metà si beve Coca-Cola. No, sempre vino. No, stavo scherzando. E invece l'altra alleanza, quella con lo Champagne, siete quasi agli opposti come concezione di vino, no? Ma sono gli opposti, però sono due tra le denominazioni più antiche. Dell'Italia, loro anzi noi siamo un po' più anziani di loro. Chiaramente quando si parla di Champagne è la denominazione più importante al mondo vitivinicola. A che anno fate riferimento, visto che battiamo lo Champagne, almeno nell'antichità? Ma noi facciamo riferimento, allora noi 3 settimane fa abbiamo festeggiato i 300 anni dall'editto di Cosimo III de' Medici, che è il documento più vecchio, più antico che c'è in Europa riguardante una denominazione. E lo Champagne è un po' più giovanino invece? Diciamo che il consorzio del Champagne sembra costituito intorno agli anni 60, quello del Chianti Classico nel 24. Ecco, quindi siamo 1924-1960, chiaramente. Vabbè, quindi abbiamo una... un buon vantaggio, un buon vantaggio. Loro, per carità, hanno tanto da insegnare agli altri, quindi c'è questa collaborazione che sarà poi formalizzata nel mese di dicembre, penso. Ma vuol dire anche che a tavola uno può iniziare a passeggiare col Chianti e poi finire con lo Champagne? Ma io inizierei con lo Champagne e continuerei con il Chianti Classico. Il contrario, perché se no così va a finire. No, ma c'è sempre che non è vero, che i due vini in un passo non si possono mescolare. Diciamo, non dico mescolare, ma comunque bere, perché non si mescola, ma sono così bere. Ovvio. Diciamo che non è assolutamente vero, ci sono alcune volte, facciamo dei pranzi, delle cene, anche cambiando 5-6 tipologie di vino, Sicuramente, certo, se se ne beve tanto di ciascuno, magari dopo si sentono le conseguenze. Ma mi sembra molto, mi sembra molto saggio cosa, però. Comunque, quello che ha detto. Secondo me iniziare con lo champagne all'inizio come antipasto e poi continuare con bel Chianti Classico e magari una riserva, una gran selezione per finire non è male. Come mi sembra un ottimo piano, perché pur essendo le 8:48 ci sembra un'ottima, un'ottima cosa, 8:48 del mattino. Grazie Zigarelli. Grazie mille. Noi, questa è la candidatura che arriverà, insomma, del Chianti, è patrimonio dell'UNESCO il territorio del Chianti, e invece l'alleanza con lo champagne esiste già. E mi sembra molto saggio che lui abbia detto giustamente antipasto con lo champagne e poi dopo Chianti Classico fino alla fine, perché così se guardi anche semplicemente probabilmente a livello di bottiglie è 4-1. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Allora, abbiamo Giancarlo che chiama da Roma all'800240024. Giancarlo, ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Per la trasmissione. Io volevo parlare della legge del caporalato. Sì. Che ascoltavo in macchina mentre camminavo. La legge che approvo all'80% tranquillamente. Però non so il personaggio che appunto vi dava spiegazioni sulla legge, no? Io per i caporali li possiamo anche mettere in galera e buttare la chiave, ma per quanto riguarda gli imprenditori, però, se io non ci tengo a precisare che non ho un metro di terreno coltivato, per cui il problema, diciamo, è di riflesso. Se io diciamo, a causa di questa legge mi sale il costo del prodotto che io coltivo, giusto? Sì. E diciamo che ho un costo di pomodoro di 30 centesimi, arriva il grossista e mi dà 15 centesimi, giusto? Sì. Tutti i paesi che importano... Cioè, no, non lo so, in che senso? Se lei ha un costo di 30, qualcuno gliene offre 15, lei non glielo può certo vendere. Eh sì, però siccome li importano dall'estero a 15, io glielo devo vendere per forza. Cioè, perché questa legge non si prende carico del fatto che il prodotto non può essere importato in questo paese? Cioè, lei sta dicendo, scusi Giancarlo, sta dicendo che in Italia si possono coltivare solo pomodori sfruttando i lavoratori per 8 euro al giorno col caporalato? No. Perché non è così, perché nella legge, invece lo ha detto l'onorevole Berretta, si va a valorizzare la rete dei produttori che rispettano le regole. Non è vero, questo esiste. Non è che sono tutti, non è che fanno tutti il caporalato, non è così. Non è vero, perché poi l'importazione... No, non voglio negare che ci siano problemi, mi sto scaldando, perché il tema è importante. Lei ha ragione, cioè c'è un tema di retribuzione sotto mercato del lavoro dell'agricoltura. Però la retribuzione non ce l'ha. Chi coltiva all'estero questo problema non ce l'ha. Giusto? Sì, però noi non possiamo preoccuparci di chi lavora all'estero. Ma in che senso non ce l'ha? Nel senso che se io devo dare 10 euro all'operaio italiano e quello ce l'ha 2 euro, il prodotto lo importerà sempre a meno costo del mio. Sì, ma questo problema, lei ha ragione, esiste, però le ripeto, non è che in Italia si possono coltivare pomodori a prezzi di mercato solo con il caporalato, non è così, perché le do una notizia Giancarlo, ci sono tantissime aziende che rispettano le regole e quelle bisogna salvaguardare dalla concorrenza sleale di chi invece fa il furbo. E poi c'è l'altro tema che dice lei, che è importante, quello è un tema più generale, che proprio ha a che fare con i prezzi, con i mercati internazionali, con le barriere doganali. Su cui pure, sì. E questo, se io non faccio entrare merce sotto il costo di produzione, non ci sarebbe questo. Va bene, Giancarlo, però questo è una questione che c'è, ma come dire, si intreccia con la legge di cui abbiamo parlato, ma sono due aspetti diversi, diciamo, sono due poli, forse due facce di una stessa medaglia, salvare l'agricoltura italiana. Grazie Giancarlo, buona giornata. Rosi da Milano, Rosi. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Allora, io chiamavo per candidare la persona sia al tavolo che all'ONU. Perfetto. La donna. Chi è? Io, Emma Bonino. Scendiamo dal fatto che sia una politica. È una donna di grandissimo spessore, intelligente, ironica quanto basta. E secondo me sarebbe stato davvero bello essere un uccellino, stare al tavolo vicino a Renzi, Obama e la Bonino. sarebbe stato veramente un bel ragionamento quella sera. Mi sembra un bellissimo progetto. È bello poi anche che dici un bell'uccellino. Che sembra un po' come, se mi permette la battuta, come a dire anche Obama, sarebbe anche costato poco. Quindi mi sembra un piano perfetto. Quindi accogliamo la sua candidatura assolutamente. E invece per la candidatura precedente di Fabiola Gianotti, dobbiamo dire che, come c'è stato anche detto, Fabiola Gianotti pare che fosse alla cena, quindi non possiamo accettare la candidatura. Colpo di scena. Adesso, prima di chiudere, abbiamo un'ultima ora che riguarda la religione, anzi le religioni. Oh, all'ospedale di Parma c'è la stanza per pregare, la stanza delle religioni, però non solo la classica cappella per la religione cristiana, ma c'è una stanza dove possono pregare tutti, musulmani, buddisti, ebrei, chiunque. Io me la immagino, entri dentro, schiacci, c'è un interruttore, adesso via, allestimento cristiano, altare, santini, crocifisso. Ah, tu dici poi che cambia? Schiacci, tappeti, tutti accucciati per i musulmani. No, invece no, perché non c'è niente in quella stanza. È quello il bello, è bello per tutte le religioni, per tutti i culti, o anche semplicemente uno può anche non avere una religione, non avere un culto, può essere semplicemente fosse per prendersi un momento per sé. Era una notizia che ci piaceva. 800 24 00 24. Adesso c'è il giornale radio, poi torniamo, vi aspettiamo. Chi avreste invitato alla cena con Obama e Renzi? Qual è la donna che potrebbe essere testimonial dell'ONU per i diritti umani? Non Wonder Woman. E poi anche la legge sul caporalato e quant'altro. Giulia Innocenzi con noi dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo scelto di partire di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. Ben ritrovati con Si può fare. Abbiamo scelto di partire con Paul McCartney, Looking for Change, perché McCartney è uno dei volti della battaglia contro gli allevamenti intensivi ed è anche il volto della fondazione intitolata alla sua prima moglie Linda, che era una fotografa vegetariana, a cui si attribuisce tra l'altro la frase: se i macelli avessero le pareti di vetro, nessuno mangerebbe più carne. E penso che ha molta ragione a dire Credo che condivida questa frase assolutamente. Giulia Innocenzi, buongiorno. Ciao, buongiorno Giulia. A voi, condivido. Ciao Giulia. Anche ciao. Perché il tuo libro appena uscito, Tritacarne di Rizzoli, parte proprio da questo, cioè da un'incursione notturna in un allevamento, se ricordo bene, di suini, di maiali. Esatto. Diciamo le cose con il loro nome, maiali. Scherzando mi viene da dire, ma chi te l'ha fatto fare? Perché in effetti è così, cioè aprire gli occhi su una realtà così scioccante, cioè non è da tutti. Guarda, me l'ha fatto fare a mia volta un libro, che è quello di Safran Foerste, Niente Importa. E io ero assolutamente ipercarnivora, ma leggendo questo libro ho avuto proprio una reazione istantanea di abbandonare immediatamente il pollo, perché quel libro mi restituiva delle immagini sugli allevamenti intensivi in America che per me erano aberranti. Ma da quel libro mi sono chiesta, ma in Italia gli allevamenti intensivi come esistono sono? Innanzitutto, e poi come sono? Ma hai abbandonato il pollo? No, ho capito bene, hai abbandonato prima il pollo? Prima il pollo, prima di tutto, perché c'era un racconto sulla cosiddetta zuppa di feci, che sarebbe un vascone dove galleggiano le carcasse dei polli, insomma, c'è poi chi magari sta facendo colazione. Te l'ho detto, è una cosa scioccante, te l'ho detto, è una cosa veramente... No, ma io ero curioso per un altro motivo, perché sì, giustamente uno va a vedere un allevamento di maiali dove succede ci sono cose terribili che proprio non si possono quasi ripetere, e però poi decide, inizio dal pollo, pensavo semplicemente perché il salame è più difficile da abbandonare, o la coppa o il prosciutto, invece forse il petto di pollo era più facile. Beh, guarda, mica detto. Non so se detto, ma poi ormai il maiale è diventato il mio animale preferito insieme alla bufala, perché questi due animali sono quelli trattati peggio, perché poi il maiale è un animale intelligentissimo e molto curioso, e che viene costretto in questi recinti, e gli allevamenti dove sono entrata io sono gli allevamenti dell'eccellenza italiana, figurarsi gli altri. Ecco, appunto, e sono costretti a una vita ammassati uno sopra l'altro, a vivere nelle proprie tesi, e fanno l'aberrazione peggiore per la noia di vivere in questi recinti, fanno atti di cannibalismo, cioè mangiano. Questa è la cosa allucinante che io non sapevo, e che ho imparato leggendo il tuo libro. Questa è una cosa veramente, addirittura poi si tagliano la coda e forse anche le orecchie per evitare che questo cannibalismo possa degenerare. Però ciò nonostante, e castrati pure, però ciò nonostante poi gli animali sono talmente ammassati che, almeno quelli che hai visto tu, che poi continuano a mordersi l'un con l'altro. Assolutamente, non è solo una questione di benessere animale qui il problema è proprio anche una questione di salubrità della carne, perché quando questi maiali poi compiono atti di cannibalismo, ma vivono in queste condizioni igieniche iper precarie, sono animali malati, animali a cui poi vanno dati tantissimi antibiotici. L'Italia è il terzo paese in Europa per consumo di antibiotici per animali d'allevamento. Questo è vero, ed è la Spagna, sì, però tra l'altro notizia anche di questa settimana. Però questo potrebbe far pensare a qualcuno che insieme all'altra cosa che si dice spesso degli allevamenti italiani, sono i più controllati, ci sono tanti ispettori veterinari, si danno gli antibiotici per evitare che si ammalino gli animali, quindi c'è un controllo sull'igiene, sulla sanità degli animali. Però anche contro questa cosa tu ti scagli, sul fatto che sia vero questo. Allora, da una parte abbiamo quello che ci hanno sempre raccontato, cioè che il Made in Italy è l'eccellenza e che il sistema dei controlli italiano è il migliore al mondo. Poi però mi sono scontrata con la realtà, che a mio avviso è ben diversa. Il problema del sistema veterinario è che abbiamo veterinari che non fanno la rotazione, quindi veterinari che possono controllare gli stessi allevamenti o lo stesso macello anche per 20 anni. E questo secondo te è sbagliato? Perché? Questo è sbagliato perché io racconto nel libro il caso di Amadori, lo stabilimento Avicop di Cesena, dove c'era lo stesso veterinario da 20 anni della ASL di Cesena. Alla domanda, e questa è l'intercettazione che pubblico, del dirigente di Amadori: ma tu stai con noi Amadori o con i NAS? Il veterinario risponde: con i NAS no. Cioè, è terribile questo, perché uno dice: allora che cosa stai lì a controllare? Cioè, il sospetto che fosse comprato anche addirittura, o che semplicemente fosse parte di un sistema che invece dovrebbe controllare e non essere in qualche modo. E poi il problema è che la carne non controllata è una carne meno sicura, questo è il problema. Questo è un punto fondamentale, perché un sacco di volte sembra una battaglia fra chi mangia la carne e chi non mangia la carne. In realtà la cosa importante è anche questa, sì. Ovvero che anche chi mangia la carne non deve volere questo tipo di trattamenti, perché se la dividiamo fra chi mangia la carne è contento che gli animali vengono maltrattati e chi non la mangia invece sono gli unici che difendono gli animali, mi sembra sbagliato come punto, perché giustamente quello che dici tu dici: guardate che anche voi a cui la carne piace moltissimo, in realtà mangiate una carne molto peggiore. Guarda, per me è una battaglia per aprire le porte e accendere le luci all'interno degli allevamenti intensivi. Giusto. Perché noi in Italia abbiamo centinaia di milioni di animali d'allevamento e oltre l'80% di questi animali è chiuso negli allevamenti intensivi. Questo significa che passerà tutta la sua vita all'interno di un capannone. E questi capannoni sono chiusi, non ce li mostrano mai, invece si mostrano nelle pubblicità animali che pascolano felici sull'erba. E parlano. Invece la realtà è un'altra, pure. Esatto. La realtà è un'altra e dobbiamo cominciare a dirci cos'è il nostro Made in Italy, cos'è diventato il nostro sistema di produzione e se è quello che vogliamo. Giulia, resta con noi, 800 24 00 24, Giulia Innocenzi, Tritacarne, tra poco continuiamo a parlarne, adesso c'è il traffico, poi ascoltatori se volete intervenire, perché come diceva Carlo, giustamente, che siate vegani o semplicemente vegetariani o mangiate carne una volta alla settimana o che amiate gli animali, credo che questo libro qua, questo tema interessa tutti noi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Insieme a Giulia Innocenzi, autrice del libro Trita Carne, che uno dice, vabbè, non mangio la carne perché oppure cerco di evitarla, mangiare solo la carne che mi porta mio cugino perché l'ha cacciata suo nonno con le sue stesse mani, che forse è meglio dell'allevamento, oppure mi mangio una bella mozzarella, un prodotto che deriva dal latte naturale, sto tranquillo. E invece no, perché anche lì sei andata a investigare e hai trovato cose che non andavano, Giulia. Purtroppo, per esempio, sono andata in Campania dove effettivamente le bufale pascolano anche. Il problema, per esempio, per quanto riguarda la mozzarella di bufala, per quanto mi riguarda, è un grandissimo problema etico, cioè la bufala per fare il latte deve continuamente partorire e se nasce femmina va benissimo, avrà una lunga carriera davanti a sé di bufala da latte, ma se nasce maschio allora va semplicemente eliminato perché non esiste un mercato della carne di bufalo e il problema è che mandare al macello il bufalino costa e ho trovato io stessa in una campagna dietro Casal di Principe una carcassa di un bufalino, è arrivato da me l'allevatore perché era esattamente dietro un allevamento e mi ha detto ma questi cosi non fanno il latte, questi cosi. Li paghi te per mantenerli e per portarli al macello? E quindi vengono semplicemente, in molti casi, non ovviamente tutti, lasciati morire di fame e di sete. Queste ma non si potrebbe trovare una funzione anche, cioè una funzione guarda, utile in realtà, la anche carne per loro. Il bufalo è sì. Un'ottima carne, ha meno colesterolo, è ricca di ferro. Il problema è che è sempre un problema economico. Il bufalo per crescere si mette il doppio del vitello. Mangia di più? Ma magari. Mangia di più e quindi bisogna consuma dare più mangime e bisogna pagare di più. Volevo chiederti una cosa, Giulia, perché io penso che chiunque veda i documentari o le inchieste, molte che hai fatto anche te sugli allevamenti, a un certo punto è costretto giustamente ad aprire gli occhi e dice ma questa cosa è veramente che non si può fare, è disumana. La cosa che mi chiedo è una cosa che si fa più per una questione di costi e quindi di avidità, perché vogliono guadagnare di più e quindi in quel modo guadagnano di più, o è anche una questione di quantità, ovvero per sfamare il mondo l'unico modo è questo orrore? Allora, in realtà per sfamare il mondo è meglio la verdura, sempre di più la carne. Giusto. No, non lo dico io, lo dicono gli studi, per esempio uno ultimo della FAO, perché siamo destinati a mangiare sempre più carne, parlo di Cina e India, figuriamoci in Cina ci sono 500 milioni di maiali, figuriamoci cosa può diventare il pianeta se dovremo ospitare tutti questi animali d'allevamento che sappiamo che sono iperinquinanti e a oggi un terzo delle coltivazioni viene destinato agli animali. Quindi questo sistema non è assolutamente efficiente e l'allevamento intensivo è soltanto una questione di taglio di costi. Cioè si ammettono delle vere e proprie torture sugli animali la per risparmiare, per avidità. Bisognerebbe trovare delle altre soluzioni, no? Che possano far squadrare sia l'economia dell'azienda ma anche il rispetto dell'animale. Abbiamo parlato tanto di maiali ma ci sono anche i cinghiali, cioè, abbiamo una notizia su questo. Fa il cinghiale, dai prova a sparare. Prendi la mira e la introduciamo così, come sempre, con questa musichetta. Allora, succede che all'invasione dei cinghiali in provincia di Biella, siamo in Piemonte, il sindaco risponde cercando cacciatori che vengano da fuori, perché a Biella non ci sono cacciatori per dare la caccia a questi cinghiali, questa sovrappopolazione di cinghiali. Ma uno dice, ma come? Ci abbiamo messo tanto a regolamentare, a limitare la caccia, che i cacciatori sbagliavano, adesso invece scopriamo che cacciatori servono. E come fanno i sindaci a procurarseli? Questa me la sono scritta impiegando cacciatori di cacciatori, cioè, a cercare i cacciatori. Giulia, meglio la caccia o l'allevamento? Guarda, nel libro intervisto mio papà che è un cacciatore, quindi mi ritrovo in un conflitto di interessi, se vuoi, subito smascherato, perché lo rivelo subito nelle prime pagine. Con una descrizione bellissima degli animali in frigorifero, scusami, non volevo interromperti. Uccellini morti, sì. Per riprendere sempre il discorso che c'è gente che sta facendo colazione mentre si ascolta. Esatto. Però effettivamente io mi sono sempre ritrovata ad avere questo frigorifero dove aprivo e trovavo questi cadaverini di uccellini, alcuni spiumati, altri ancora con le piume, con la testolina penzolante per prendere lo yogurt. Dove, diciamo così, non è il massimo della vita. Infatti è una scena bellissima, sì, del libro, sì, perché sarà che ti immaginiamo proprio che apri il frigorifero, illuminata dalla luce del frigorifero, tu vuoi lo yogurt e per raggiungerlo devi passare per una specie di olocausto di uccellini. Infatti, però nonostante questo, e non solo perché mio papà è cacciatore assolutamente, ma se tu mi dici cosa devi buttare giù dalla torre, l'allevamento intensivo o la caccia, io ti dico l'allevamento intensivo, perché almeno con la caccia un animale ha potuto vivere in libertà prima di essere ucciso, mentre nell'allevamento intensivo è l'aberrazione dell'esistenza proprio. Eh sì, perché insomma, la negazione dell'esistenza. Lo hai descritto e basta leggere le pagine del tuo libro, devo dire. Poi uno può decidere anche di fermarsi a un certo punto perché è troppo scioccante, fa troppo male, non voglio sconvolgermi la vita, non voglio aprire gli occhi necessariamente su questa cosa. No. Oppure uno va avanti, io sono andato avanti e devo dire, poi superato lo shock si comincia anche a capire di cosa stiamo parlando. Qual è l'obiettivo del tuo libro alla fine, Giulia? Cioè è quello di far diventare tutti vegani? È quello di vorresti cambiare questi allevamenti? Perché tu racconti anche di come è cominciato il tuo viaggio, cioè tu stavi male, no? Soffrivi anche. Sì, ero finita all'ospedale perché non mi curavo assolutamente, era un periodo molto frenetico e stressante, soprattutto la mia alimentazione lasciava molto a desiderare, ecco, aprire la scatoletta con la carne in scatola era, diciamo così, il mio passo ideale. Che è la fine di questo percorso, cioè l'allevamento intensivo, la carne in scatola o il tonno in scatola, tutto mangiato di fretta, magari senza neanche rendersi conto che stiamo mangiando carne tutti i giorni, dicono tutti i dietologi, bisogna mangiare la carne, fa bene, 2-3 volte alla settimana, invece finisce che con questo sistema ci rimpinziamo, no? Tu ti rimpinzavi, a un certo punto hai cominciato a star male, sei finita proprio all'ospedale, era per quello poi hai scoperto? In realtà non penso, nel senso che era un'infezione al rene, però ho rivalutato tutto il mio stile di vita e anche la mia alimentazione, e tu mi hai chiesto appunto qual è il tuo obiettivo. Il mio obiettivo non è assolutamente far diventare nessuno vegano e vegetariano, ma semplicemente far sapere cosa ci mangiamo, come ha vissuto quello che ci mangiamo e se quindi ognuno di noi ritiene accettabile, io lo chiamo il livello di accettabilità etica, di quello che ci mangiamo. Ed è anche una questione proprio di salute personale, perché noi dobbiamo anche sapere quello che ci fa bene e ci fa male. Noi oggi mangiamo il triplo della carne che ci mangiavamo negli anni 50, quando il ricercatore americano che è arrivato nel silenzio ha coniato il termine dieta mediterranea. Oggi la dieta mediterranea la fa solo il 10% degli italiani, tutti gli altri ormai hanno un consumo di carne che assolutamente è quasi pari a quello europeo. Si resta quasi senza parole, ma insomma, ripeto, leggere questo libro vuol dire affrontare un gradino uno per volta, cioè superare un momento di quasi di shock ogni volta, però ne vale la pena perché è la realtà che sta al nostro fianco, non è che possiamo chiudere gli occhi. Perché tocca farlo assolutamente. E propongo, scusate, una sola soluzione che è a costo zero, basterebbe solo un minimo di volontà politica, cioè l'etichettatura trasparente dei metodi di allevamento, così sarebbe il consumatore a scegliere se comprare il latte o la coscia di pollo di un animale che è vissuto in un allevamento intensivo oppure di un animale che ha potuto pascolare e mangiare erba. Ed è una cosa Giulia, scusa se ti interrompo, che si sta facendo sempre di più piano piano. Noi uno dei primi a capirlo è stato Bernardo Caprotti, che all'Esse Lunga da molto tempo ha inserito prodotti con queste diciture, cioè ci sono, cioè tu puoi andare a scegliere un certo tipo di prodotti leggendo l'etichetta che riporta quel tipo di cosa, particolare per quanto riguarda le uova o anche altri alimenti. complimenti, sempre di più. Noi sull'etichettatura ci siamo perché... e soprattutto che siano regolamentate, volte... che siano controllate, perché se sì. lo fa un privato che decide di fare la propria etichetta, però poi non sai se realmente quell'etichetta è reale o meno, quindi serve che ci sia un'etichetta europea, diciamo. Bravo. E ci piace anche che si chiuda questa intervista con una proposta, questa dell'etichettatura. Grazie Giulia, perché altrimenti rimanevamo giù di morale troppo. Grazie per essere stata con noi. Ciao Giulia. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao a tutti. Valere, valere, valere, valere. Giù le foreste, mettono blocchi circolazione. Non dovevate pensarci un po' prima, non dovevate ridurre le emissioni. Prima o poi arriverà un cataclisma che ci spazzerà tutti via. Cataclisma, Jürgen Klinsmann. Cataclisma, Jürgen Klinsmann. Cataclisma, cataclismatico. Cataclisma, cataclismatico. Cataclisma, Jürgen Klinsmann. Cataclisma, Jürgen Klinsmann. Nelle città. Questa è Si può fare, e questa che abbiamo appena ascoltato è Cataclisma dei Tangest Time. Voglio vedere Cataclisma come me lo declini sul Si può fare, perché qua sia Cataclisma, cioè, lo so, è peggio di così. Perché è una canzone che ci è stata suggerita da Gabriella, ecco. Che è la mamma di uno di questi ragazzi, ecco. Quindi è un Si può fare, nel senso che dice mio figlio fa questa cosa, esatto, sono ragazzi. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei compositori o dei musicisti, anche semplicemente degli ascoltatori che sentite una canzone e trovate che è ben espresso il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarci questa canzone. Lo potete fare mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, su Facebook sipuofare_radio24 oppure su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Allora, poi c'è anche il mio di Facebook e di Snapchat, però adesso non so dirli tutti. Mi fai paura quando dici Snapchat, perché questa parola è veramente suona male, cioè o cambiano termini oppure non entrerò mai in Snapchat. È bellissimo, mai. Io li chiamo anche Schnaps, che mi sembra più giusto, che ricorda la grappa alla tedesca. Giusto, allora ascoltatori, tra poco con voi, e vi chiediamo anche di fare i giurati per i nostri progetti di crowdfunding, i progetti che cercano il nostro aiuto, quindi il nostro sostegno economico, l'aiuto dal basso, se volete giocare con noi. Intanto Leonello, credo che si dica così, da Bologna, buongiorno. Leonello? Buongiorno. Bene. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì, su cosa volevi intervenire, Leonello? La prima proposta che avete fatto agli italiani, sì, di suggerire o di proporre un candidato da aggiungere alla tavola. Aggiungi un posto a tavola, ah, Renzi, esatto. Obama. Esatto. Sì. Chi aggiungeresti? Vittorio Sgarbi. Per litigare, per finire la no, serata no, no, a litigare? Assolutamente, non assolutamente, perché... avrebbe rappresentato degnamente gli italiani e l'Italia, e avrebbe aggiunto un pizzico di spiritosità, un pizzico di sale. Ma io te lo dico, tavolo, finiva litigando, finiva con Renzi e Obama che litigavano. Vabbè. Chiedeva della capra, cosa. Magari chiedeva capra, capra, capra. Diceva... No. Questo lo fa quando è davanti a delle capre, giusto? No, ma invece sì. Avrebbe intanto, come ho detto, rappresentato degnamente gli italiani. Vabbè, ma soprattutto avrebbe riferito esattamente a noi italiani quello che durante la tavolata si è detto, si è commentato. Ah, perché lei avrebbe voluto un inviato che dicesse tutto quello che si è detto, perché secondo lei si sono dette cose... L'uno e l'altro. Cosa si è detto secondo lei a quella tavola? Cose irriferibili? Si sono dette delle battute, si sono dette delle spiritosità, si saranno dette anche delle cazzate. Ah, vabbè. Beh, ma quindi, altro, allora chi se ne frega però che si riferisse alle cazzate? A quelle ci voleva uno spirito... vivace per contrabatterle, per... Va bene Leonello, grazie. A lei piace Sgarbi, però sinceramente farsi riferire le cazzate che sono state dette alla cena tra Obama e Renzi, non so qual è il valore aggiunto, se ne può fare anche a meno. Però a lei piaceva, questo era il suo candidato. Mauro da Lecco, sentiamo chi invece... Buongiorno. Mauro, buongiorno. Buongiorno, tutti il telefono per raggiungere un posto a tavola. Prego. E visto che Obama ha elogiato e ha dato un aiuto per quanto riguarda il lavoro che i volontari stanno facendo nel canale di Sicilia per il recupero degli emigrati, sì, avrei portato il dottor Bartolo. Il dottor Bartolo, nella persona... Certo. Chi è il dottor Bartolo? Mi scusi, in questo momento mi sfugge. È quello che sta salvando un sacco di persone dai canotti. Un medico? È un medico? Sulle navi della Guardia Costiera. È il medico della Guardia Costiera, cos'è? No, dovrebbe essere un medico di Lampedusa. Un medico? È il medico dell'isola, di Lampedusa. Che sta salvando vite umane. Quindi lei, certo, dice, partiamo dalla testimonianza del ruolo dell'Italia sul Mediterraneo, nel canale, certo, Sicilia, il dottor Bartolo. A parte che penso che se l'avessero invitato avrebbe declinato l'invito, perché sua presenza è più importante a Lampedusa. C'aveva da fare a Lampedusa, forse sì. Chissà, magari poi scopriamo, come nel caso di Fabiola Giannotti, che il dottor Bartolo era già invitato tra i 300 invitati, perché al tavolo c'erano una decina di invitati. C'era il sindaco di Lampedusa. Per esempio, vedi che tutti i temi toccati da scrittore poi sono, in realtà, erano in qualche modo presenti. Già dentro a quella scena lì. 800 24 0024, a tra poco, crowdfunding. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua, allora, anche questa settimana abbiamo cercato sulla piattaforma di crowdfunding Apple due buone idee in cerca di finanziatori. Abbiamo trovato due progetti, sono due invenzioni a confronto. Una riguarda quei 5 minuti in cui ci beviamo il caffè. E sì, l'altra invece riguarda quando piove e ci dimentichiamo dell'ombrello. Allora, è un problema che io ho enorme, perché l'ombrello lo perdo sempre. Quella invenzione sempre è tutta per te. Allora, abbiamo i giurati che sono gli ascoltatori, credo di avere in linea Carlo da Roma, è così? Buongiorno? Sì, buongiorno a voi. Benissimo, è l'appello, Carlo. Questo, è l'appello. Esatto, grazie Carlo di essere qua. Anna Rita, grazie, sempre da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La nostra seconda giurata, poi se abbiamo spazio sicuramente vi faremo intervenire anche su altri argomenti. Daniele dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei. C'è anche lui. Perfetto. C'è anche lui, Daniele, i nostri tre giurati. Allora, iniziamo con la presentazione del primo progetto, Cremetto. Allora, si chiama Cremetto e di cosa si parla? Vi abbiamo parlato tante volte del danno ambientale provocato dalle capsule del caffè, che sono difficili sia da smaltire che da riciclare. Ci ha parlato tante volte lo Stano Ercolini. Ma un imprenditore italiano si è inventato un metodo per ricaricare e riutilizzare queste capsule, appunto Cremetto, che è compatibile con le macchine da caffè e per decollare ha bisogno di 15.000 euro. Ce ne parla Andrea Palmieri, che è proprio l'inventore, l'ideatore. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Andrea, ti diamo un minuto, secondo più secondo meno, per convincere gli ascoltatori, i giurati, insomma tutti noi, del perché dovremmo aiutare in questo progetto, in questa tua invenzione. Beh, innanzitutto io vi presento il Cremetto, che praticamente la considero come l'invenzione dell'anno. Il Cremetto è un dispositivo, no, che ci permette di ricaricare direttamente da casa nostra tutte le capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso. Quindi possiamo dire che Cremetto è sinonimo di ecologia, in quanto non dovremmo più porci il problema dello smaltimento della capsula, perché noi con la stessa capsula potremmo rifare il caffè più di una volta. È anche sinonimo di risparmio, perché ricaricando per più di una volta la stessa capsula con il caffè che vogliamo, è come se ogni capsula ci costasse 0,04 centesimi. Il prodotto è all'inizio, quindi ha bisogno di essere conosciuto e di essere migliorato. Sviluppato, certo. E sviluppato, esatto. Quindi ecco perché ci siamo affidati al crowdfunding di Poste per avere supporti e aiuti per migliorarlo sempre di più. E anche perché il prodotto è made in Italy e ci piacerebbe esportare questo marchio e questo prodotto anche all'estero. È finito il countdown. Bravo, sei stato in un minuto, Andrea. Complimenti. È difficile ricaricare queste capsule? No, non è per niente difficile. Considerate che quando uno ci prende la mano, in 7 secondi, fantastico, nemmeno riesce a ricaricare la capsula. E sulle ricompense, Andrea, hai qualcosa da dirci? Perché il meccanismo del crowdfunding è quello, no? Sì. Beh, diciamo che hanno le agevolazioni di prendersi il prodotto a un prezzo molto agevolato in base alle offerte che fanno, perché questo prodotto uscirà sul mercato con un prezzo al pubblico abbastanza importante Quindi chi vi aiuta invece avrà uno sconto sostanzialmente. Certo, pensavamo un caffè al bar. Come ricompensa era quella per forza. Invece no. Va bene, questa era Cremetto Andrea Palmieri. Adesso l'altra invenzione. Vai. Si chiama Remembrella ed è... Carlo, questo è per te. Sì. È il primo ombrello impossibile da perdere. Perché? Perché l'ombrello avverte il proprietario prima che se lo dimentichi inviando un messaggio al suo smartphone ogni volta che si allontana troppo. Adesso capiremo, ogni volta potrebbe essere terribile, nel senso che proprio da quando ti allontani parli solamente con il tuo ombrello. Per completare lo sviluppo del prodotto servono 15.000 euro. Ce ne parla Marco Piacentini, che è uno degli sviluppatori di Remembrella. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Scusate la voce, ma... Che succede? Hai perso l'ombrello? ti sei preso l'acqua. No, questo sarebbe il colmo per l'inventore di Remembrella. Senti, raccontaci perché in un minuto, secondo più, secondo meno anche per te, perché dovremmo scommettere su Remembrella? Allora, Remembrella in un mondo dove ormai è tutto 2.0, Remembrella è l'ombrello 2.0. Remembrella cos'è? È un ombrello smart che è collegato al nostro telefono tramite ovviamente un'applicazione dedicata, per cui stiamo chiedendo il finanziamento su Webera grazie anche a Poste Crowd. Possiamo avere live il meteo, ad esempio la mattina esco di casa, non so che pomeriggio piove, l'app mi avverte: attenzione Marco, stai uscendo di casa ma oggi pomeriggio piove, ricorda l'ombrello. Altra situazione molto importante, ad esempio sono in un negozio con mia moglie, esco con le buste, mi dimentico l'ombrello al negozio, anti-lost, esco dal negozio a un certo punto, 10, 15, 20 metri, mi dimentico l'ombrello, non me lo ricordo io, me lo ricorda il telefono. Allontanandomi dall'ombrello mi arriverà una notifica e mi dice: attenzione Marco, hai dimenticato l'ombrello in negozio. Mappa di Google con il point mi dice: occhio, l'hai dimenticato qui. Altra cosa molto importante, abbiamo integrato sul manico una lampada a LED, perché ovviamente si presuppone che quando piove o non si vede nulla perché è notte, o comunque a prescindere manca la visibilità necessaria, luce a LED sul manico. Altra cosa molto importante è che l'ombrello non serve solamente quando piove, ma serve anche quando per chi magari ha problemi di pelle, per bloccare i raggi UV alla pelle. Ma è fantastico. È scaduto il tempo. Volevo anche interrompere, perché se esci dal negozio e ti dimentichi dentro la moglie, però non ti avvisa nessuno. La lascio lì. Va bene. Cioè, dell'utilità sociale dell'ombrello rispetto alla moglie. A me è successo recentemente che mi abbiano preso il mio ombrello e mi hanno lasciato un altro. E in questo caso mi sarebbe arrivato un messaggio, sarei corso dietro alla mamma di un altro bambino a scuola, c'è stato questo incrocio. Per quanto riguarda le ricompense, Marco, di chi vuole sostenere questo ombrello intelligente, Remembrella, che cosa avete pensato? Assolutamente sì, per la ricompensa noi abbiamo pensato un forte sconto sull'acquisto di mercato per chi ci dà fiducia e ci sostiene oggi in campagna. Anche qua lo sconto, perfetto. Assolutamente sì. Certo. Allora, due invenzioni questa volta se la giocano, perché sono proprio due invenzioni, due mondi diversi, però entrambe molto interessanti. Cari giurati che avete pazientato fino ad adesso, cominciamo con Carlo da Roma. Carlo, quale dei due progetti ti ha convinto maggiormente? Beh, diciamo, se è un gesto impulsivo di parte, è insindacabile, diciamo, il giudizio della nostra giuria, vai tranquillo. Quello delle capsule ricaricabili. Va bene. Perché bevi il caffè tutti i giorni? No. Perché ogni volta che vedo il cestino del mio ufficio, ogni volta che vedo con le capsule ti senti male. Vedo troppe capsule. Perché sei una persona sensibile. Bravo Carlo, il tuo giudizio, il tuo voto è questo. Perfetto, perfetto, anche se votavi Remembrella. Annarita da Roma, buongiorno di nuovo. E chi buongiorno a ti ha convinto? Allora, io propendo per il Remembrella, anche se non mi è piaciuta l'ultima cosa sulla moglie, e quindi gliela volevo fare un po' scontare. No, vabbè, ma questa è colpa mia. L'ha messo in difficoltà Carlo, non è allora, vero. Remembrella, e vi dico anche perché. Sì. Perché a me capita spesso, e penso che capiti a molti, e mentre l'altro progetto mi dava un pochino da pensare sulla qualità del caffè che andiamo a immettere nelle cialde, che non sarà più quello per esempio della Nespresso. Ecco Andrea, poi bisogna pensare... Ma magari sarà migliore, perché uno si compra un caffè... Lo so, però... Vedi che questo gioco serve anche agli inventori per poi fare delle... Migliorare il tiro. Dei miglioramenti, perché no? Andiamo col terzo giurato, Daniele, dalla provincia di Vicenza. Quale progetto ti ha convinto di più? Salve, il progetto che mi ha colpito di più è quello di Remembrella, anche a me come la signora, in quanto mi è capitato spesso di dimenticarmi dell'ombrello, magari in qualche luogo, eccetera, e poi perché, insomma, dal punto di vista funzionale e pratico lo vedo più indicato per la vita di tutti i giorni, insomma, fermo restando che anche altro progetto è molto interessante. Benissimo, Daniele. Allora, mi pare evidente 2-1 sul filo di lana a vincere Membrella su Cremetto, però insomma è solo un gioco, perché come sempre tutti e due i progetti li trovate sulla piattaforma e sono tutti e due meritevoli del vostro aiuto. Grazie ad Andrea Palmieri di Cremetto e a Marco Piacentini di Remembrella, complimenti. Cari ascoltatori, invece noi torniamo con Cloud Me Up la settimana prossima, tra poco invece torniamo per l'ultima parte del programma, gli ascoltatori, è un'ultima storia, tra poco 800 24 00 24, aggiungi un posto a tavola alla cena di Obama. Cloud Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. E allora, questi erano i progetti del crowdfunding interessanti questa volta. Sarebbe bello sentire cosa ne pensa Rossano Ercolini, il nostro uomo del... Questo è interessante, soprattutto per capire se le capsule è meglio riciclarle o se è meglio riempirle, anche per capire, perché prima si diceva si possono usare più volte, ma quante volte? Perché se comunque le devi usare di plastica per poi riempirle, però dopo 7 volte le devi buttare via, siamo di nuovo alle capsule di plastica. Esatto, ecco perché la soluzione studiata dal centro rifiuti di Capannori, da Ercolini con la Lavazza, era la capsula compostabile. Ma insomma c'è spazio per tutte le idee. Anna Rita, che è stata nostra giurata, però voleva anche intervenire su... Aggiungi un posto a tavola. E anche aggiungi un posto a tavola, Anna Rita, prego. Sì, avrei portato, anche se forse la vedo molto dura, Milena Gabanelli. Perché la vedi dura, Anna Rita? Renzi non l'avrebbe mai portata. Perché è una rompiscatole, perché si sarebbe no, messa... perché dice il vero, perché approfondisce, sì. Perché è per il giusto. E io la vedevo bene anche come Presidente della Repubblica. Accidenti, come no? C'è quindi stato tutto un sarebbe... il Movimento 5 Stelle la voleva, poi lei ha detto no, non mi interessa, non faccio, non cambierò, però adesso è libera, si libera perché se molla la conduzione di Report e ha detto che questa è l'ultima stagione, potrebbe avere più tempo per fare altre cose, per andare a cena Obama, Renzi Obama. Grazie. L'avrei vista bene perché è anche elegante come persona, avrei visto tutto, insomma c'era un bel po' da vedere. Ci poteva stare. Sono famosi gli anchorman delle televisioni americane in Italia. Poteva tranquillamente andare una anchorwoman di un programma importante come Report alla cena con Obama. Niente. Ci siamo, un po' scambio ritardato, ma partiamo. Come sempre, c'è un'introduzione musicale. Oggi te la facciamo sentire un po', sì, qualche secondo. Che sono orgoglioso di essere italiano. Orgoglio e vergogna, Enzi, l'orgoglio di essere freelance. Oggi c'è una giornata per capire, vivere, conoscere e anche avere degli strumenti in più per essere freelance oggi in Italia, cioè quei lavoratori. Carlo, tu sei un freelance? Certo, la maggior parte direi ormai in questo paese è il famoso popolo delle partite IVA o in generale tutti quelli che lavorano dicendo sì ma lei fa solo una consulenza, poi magari lavori nello stesso posto per 8 anni, però sei un freelance. Pagati a gettone, insomma giratela come volete. Ecco noi Matteo Marini, che nella vita fa lo psicologo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. È tra i relatori del Freelance Day che si tiene a Torino, a Lab Creativo Toolbox Coworking, e ci è piaciuto perché l'argomento che tu affronterai, già il titolo la dice lunga, Psychiatric Help, cioè l'aiuto psichiatrico per i freelance. Ne hanno bisogno? Sì, rispondo io. Sì. E mi scrivo subito, mi scusi. Uno più dell'altro, uno più sclerati dell'altro, ovviamente. No, ovviamente no. Anzi, diciamo che una dritta ogni tanto può dare una mano, anzi perché qualche volta non è facile far fronte un po' all'ansia che la libera professione in qualche modo può generare ogni tanto. Però insomma non stiamo parlando ovviamente di persone fuori di testa, insomma. Almeno però insomma di persone che rischiano magari di andare fuori di testa, perché un'altra tavola rotonda, un altro tema che è interessante era quello: come riesci a farti pagare di più, no? Perché il freelance poi deve anche avere questo tema, si pone da solo, deve contrattare anche per sé, cioè deve affrontare tutta una serie di tematiche che altre persone normalmente oltre al loro lavoro non devono affrontare, cioè oltre a lavorare devo preoccuparmi di tante altre cose se sono un freelance. Qual è il grattacapo peggiore oggi, per non parlare di una vera e propria malattia mentale del freelance? Matteo Marini, psicologo, ha scritto diversi libri tra l'altro su questo argomento. Sì, diciamo semplicemente che il problema con cui bisogna raffrontarsi quando siamo liberi professionisti è essenzialmente quello dell'ansia. Quando abbiamo uno stipendio fisso stiamo tranquilli, no? Alla fine del mese, il famoso 27. Lì magari bisogna curare la depressione se uno ha lo stipendio fisso. Il rischio potrebbe essere quello? Beh, diciamo che ogni tanto non fa male qualche certezza, ma è anche vero che gestire l'incertezza a volte crea un pochino di ansia. Quindi anche qui il mio obiettivo sarà quello di non demonizzare, insomma, dire che l'ansia è patologica o sbagliata, semplicemente che deve essere gestita. Anzi, una volta che l'ansia è gestita, cioè, ci dà una marcia in più, non ci fa fare le famose cazzate, per intenderci, cioè ci consente di leggere un po' il futuro, cioè di non metterci in situazioni, diciamo, pericolose professionalmente. Quindi bisogna tenersi un po' sul crinale qua tra sicurezze e stimoli. Com'è oggi l'umore delle partite IVA dei freelance, Matteo Marini? Volge più verso il basso o verso l'alto? La domanda successiva qual è? Cioè, umore nero, umore nerissimo? Facciamo così, ecco, sfumature, diciamo, di nero. Quale sfumatura c'è adesso? No, purtroppo l'incertezza ovviamente pesa un po' su tutti, quindi non, se devo essere sincero, un po' di ansia latente la si respira, però è anche vero che il freelance è anche un po' abituato, no? Anzi, si eccita anche un po' con l'ansia, e quindi insomma, diciamo che possiamo utilizzare l'energia propulsiva dell'ansia per dare il nostro meglio. Ma mi scusi, la cosa che volevo capire è molto cambiato ultimamente il mondo dei freelance. Io porto quasi sempre questo come esempio. Io nella mia vita non ho mai voluto fare un unico lavoro che fosse il lavoro fisso, quindi in qualche modo anche questa precarietà me la sono andata a cercare, ma questa cosa mi è sempre piaciuta per un semplicissimo motivo, che tendenzialmente quello che era il lavoro del freelance è lavorare per una cosa specifica, essere pagati molto meglio e poi avere del tempo per potersi cercare un altro lavoro. Nel momento che però il freelance viene pagato 700 euro al mese, questo non è un freelance, perché lui non è free per niente, perché il mese dopo o trova subito un altro lavoro, qualunque esso sia, oppure fa la fame. Quindi non è molto cambiato tutto questo mondo? Purtroppo sì, questo è uno dei tanti elementi che contraddistingue un po', però il freelance non sarebbe questo, cioè il freelance sarebbe quello che gode nel cambiare lavoro, nell'essere creativo, nel trovarsi diverse situazioni. Quello che mi stai descrivendo non è propriamente un freelance. No, certo. È il precario come tutti noi oggi, insomma, giusto? È travestito da freelance, sì, cioè, perché ha la partita IVA, ovviamente, però diciamo che non sarebbe quello lo spirito del freelance. Eh no, sono pienamente d'accordo, perché ormai mi sembra che le due cose si accoppino molto e quindi è molto difficile, diciamo, scinderle. Che, teoricamente, alle incertezze della vita da freelance dovrebbe corrispondere addirittura uno stipendio magari più gratificante, perché certo, uno non ha quelle altre incertezze, invece succede proprio l'opposto, e queste sono le storture italiane che cerchiamo di bilanciare, per esempio partecipando oggi, se volete, alla giornata per studiare da freelance, al Lab Creativo Toolbox Coworking di Torino. Grazie a Matteo Marini, psicologo, per essere stato con noi. Ciao. Grazie. Allora, in bocca al lupo a tutti i freelance. Per non chiudere, declinanti, abbiamo una bella notizia che riguarda una campionessa italiana. Allora, questa qua è una campionessa particolare. A soli 11 anni, Martina Martino è diventata campionessa mondiale, non ci crederete, di danze caraibiche. Esiste anche questa cosa. A San Pietroburgo si è esibita. Pure a San Pietroburgo, boh, chissà perché le danze caraibiche. È una cosa abbastanza strana. Chissà cosa farà, se a 11 anni è campionessa di danze caraibiche, chissà cosa farà a 16. Non voglio pensarci. No, ci piace la danza, quindi complimenti a questa giovanissima interprete. È tutto, siamo quasi in chiusura. Dobbiamo dare il premio, giusto? Dobbiamo dare il nostro premio e vince Chi vince? Vince La Gabanelli vince La Gabanelli, l'ascoltatrice che ha proposto di portare a cena Milena Gabanelli. Esattamente. E ha detto perché è una rompiscatola, perché è una che avrebbe perché detto è elegante, perché sarebbe stata la persona giusta, eccetera, insomma, eccetera. Ci ha convinto. Quindi complimenti all'ascoltatrice che si porta a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale. Noi siamo ai saluti perché ci ritroviamo domani alle 8.30 fino alle 10 con Si può fare. Naturalmente, come sempre, un ringraziamento al nostro autore Andrea Piana, alla nostra Claudia Schiattone, a Carmela Lauricella che oggi era in regia. Che dire? A domani. E mi raccomando, andate a scaricare il podcast avete perso l'inizio della puntata, se vi siete persi le puntate scorse, siete aficionados, andate, perché il podcast, se fate jogging, è il futuro della conosco radio. Diverse persone che fanno futuro. Jogging con il nostro podcast nelle orecchie. Non so se sia buono, non so se si dimagrisce. Bravi. Di più, ma pare di sì. Andate sulla pagina di Si può fare sul sito di Radio 24 e trovate tutto. Ciao, a domani, grazie.